sono le 13. GR24, il sole 24 ore, edizione extra large. Corso il vertice Berlusconi-Sarkozy a Roma verso la firma all'accordo per la realizzazione di 4 centrali nucleari in Italia, la prima attiva nel 2020. Di nuovo una giornata negativa per le borse, a Piazza Affari giù auto e assicurativi. Diminuiscono i consumi di prodotti alimentari, aumenta la spesa low cost, lo dice il bilancio 2008 di Federalimentare. Ottenevano finanziamenti europei ma non avevano diritto, scoperta in Calabria una truffa pari a 75 milioni di euro, 11 arrestati fra cui 3 consulenti ministeriali. Aggrediti durante una festa, colpi di macete, successo a Milano ad un gruppo di cinesi, sarebbe una spedizione punitiva organizzata da connazionali. Giallo di Garlasco, prima udienza preliminare per l'omicidio di Chiara Poggi, si dovrà decidere se rinviare a giudizio Alberto Stasi, unico imputato. Champions League, parte la sfida fra le italiane e le inglesi, stasera in campo Inter e Roma. Una buona giornata da Alessandra Tedesco e da Simone Spezia. Andiamo subito a Roma perché questa mattina a Villa Madama è in corso il vertice italo-francese. Silvio Berlusconi sta incontrando il presidente francese Sarkozy, all'incontro partecipano anche diversi ministri. Elisabetta Fiorito sta seguendo i lavori per noi da Villa Madama. Elisabetta, a te. Sì, appunto, è ancora in corso il vertice italo-francese, comunque si parla di un'alleanza tra Enel e EDF per costruire 4 centrali nucleari in Italia. L'ente opererà sotto la presidenza del Consiglio e riporterà l'Italia a produrre in proprio l'energia elettrica grazie al ricorso all'atomo, abolito, lo ricordiamo, con il referendum nel 1987. E proprio a causa del referendum è in discussione attualmente alla Camera il disegno di legge a firma del Ministro dello Sviluppo Economico Claudio Scajola, che permetterà il ricorso al nucleare. Dopo la firma italo-francese di oggi e il sì al disegno di legge, bisognerà individuare i luoghi per gli impianti e poi attivarli. Il primo impianto entro 10 anni, si tratta di 4 centrali nucleari di terza generazione, la prima da attivare nel 2020 per arrivare in totale a coprire il 25% del fabbisogno di energia del nostro paese. L'ENE avala la maggioranza sia del controllo sia dell'esercizio delle centrali nucleari. Altro punto all'ordine del giorno del vertice italo-francese, la TAV nel tratto Torino-Lione, che il premier Berlusconi assicura si farà. Si discuterà anche di esteri, di Afghanistan, e l'Italia ha già detto di essere disponibile ad un aumento delle nostre truppe qualora ce lo richiedessero. Per il momento quindi da Villa Madama è tutto, voi studio. Sì, grazie Elisabetta. Tra l'altro tra poco dovrebbe iniziare la conferenza stampa di Silvio Berlusconi e Nicolas Sarkozy, vedremo di farvene sentire qualche brano in diretta e se necessario ci ricollegheremo con la nostra Elisabetta Fiorito. Si parlava di TAV, Alessandra. Sì, si parlava di TAV perché questo è uno degli argomenti di questo vertice. Tra l'altro in un'intervista pubblicata ieri da Le Figaro, come anche ricordava la nostra Elisabetta Fiorito, Berlusconi aveva detto che la linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione si farà. Ma a che punto siamo? A dicembre il presidente dell'osservatorio sulla Torino-Lione, Mario Virano, si era dimesso, ve lo ricorderete, segnalando il rischio che la progettazione dell'opera uscisse dal programma cronologico dell'Unione Europea per resistenze e lentezze. Il 16 gennaio il governo gli ha rinnovato il mandato con poteri più ampi. Ora a fine marzo c'è il primo appuntamento, ossia la gara d'appalto per la progettazione della nuova linea. E allora Paolo Piacenza ha intervistato Mario Virano, appunto il presidente dell'osservatorio, e gli ha chiesto a che punto è il lavoro. Quando io avevo gettato l'allarme perché mi pareva che non ci fossero le condizioni per rispettare il calendario europeo, era legato al fatto di riuscire a definire le specifiche tecniche dettate dal territorio in tempo utile per la gara. Con uno sforzo straordinario di tutti, sottolineo di tutti, il 4 di febbraio queste specifiche tecniche sono state completate in tempo utile e quindi sono state inserite nei documenti di gara rispettando i tempi e gli obiettivi che avevamo avuto dal tavolo politico di Palazzo Chigi. A questo punto che cosa resta da fare all'osservatorio? Beh, adesso Torino comincia la fase della redazione del progetto, che verrà fatta da questi soggetti tecnici scelti attraverso gara, ma di cui l'osservatorio svilupperà una governance generale del processo, del progetto, con però un contributo attivo, per cui noi entro il 30 di aprile siamo impegnati a raccogliere per le 5 grandi aree del territorio che abbiamo individuato le proposte operative che vengono dai territori, con il compito di armonizzarle e poi di darle come input progettuale per le engineering che usciranno vincitrici da questa gara. C'è ancora una forte contrapposizione? Il quadro è fortemente modificato. Evidentemente resta una diffidenza che ci stimola a lavorare in un modo molto attento. Restano delle aree anche istituzionali, alcuni consigli comunali, di opposizione netta e formalizzata all'interno di una maggioranza che invece è favorevole a questo processo di dialogo. Sicuramente la campagna elettorale e il suo risultato saranno un ulteriore elemento di chiarificazione. Per il resto io credo che dovremo cominciare a dare degli esempi concreti dei risultati che con il metodo della concertazione si possono ottenere. E questo era Mario Virano, presidente dell'osservatorio sulla Torino-Lione, intervistato da Paolo Piacenza. Ora andiamo in borsa, no? Andiamo in borsa, perché ieri a questa stessa ora stavamo tirando un sospiro di sollievo vedendo le borse che erano in rialzo, poi in serata una nuova caduta con Wall Street molto pesante, e oggi le cose non vanno meglio. Deborah Rosciani. Sì, buongiorno. Infatti, come dicevate, ieri Wall Street si è riportata indietro al 1997 con gli indici che sono caduti del 3,5%, nonostante abbiano recuperato molto terreno proprio i titoli del comparto bancario, che potrebbero essere i titoli delle società che potrebbero essere presto dall'amministrazione Obama nazionalizzati, quindi parliamo di Citigroup e Bank of America. Questa prospettiva però, questa ondata di nuovo di prospettive su nazionalizzazioni bancarie, torna ad incupire l'Europa, e questa mattina scendono tutti i listini: Parigi -1,33%, Francoforte -2%, Londra -0,97%, Milano perde l'1,49%, anche se non sono proprio i titoli del settore bancario a cadere, ma ci sono altre storie interessanti come quella di Seat, pagine gialle, -8,70%, Fiat declassata da Moody's -5%, e Finmeccanica che perderà l'appalto per gli elicotteri presidenziali sempre dell'amministrazione americana, il titolo perde il 5%. Grazie Deborah Rosciani, naturalmente torneremo a parlare con gli aggiornamenti di borsa intorno alle 13.30. Passiamo alla cronaca con una notizia della notte, perché è una sorta di spedizione punitiva quella che è avvenuta durante una festa tra giovani cinesi all'interno di un locale a Milano. Tutti i ragazzi cinesi di seconda generazione, 20-25 anni, ben integrati, italiani a tutti gli effetti, figli di commercianti, erano andati a ballare. Il locale era stato affittato per una festa privata, è l'una di notte, siamo alla periferia sud di Milano. A un certo punto nel locale irrompe un commando formato da una decina di giovani cinesi, armati fino ai denti, coltelli e macete, colpiscono all'impazzata. Un giovane di 22 anni viene ucciso sul posto, 5 feriti riescono a sopravvivere e sono ora in ospedale. Quali sono le ragioni che hanno portato a una spedizione così cruenta e così plateale soprattutto? Lo abbiamo chiesto al tenente colonnello dei carabinieri Lorenzo Falferi, che sta seguendo il caso. Riteniamo che il tutto possa essere riconducibile o a problemi di scontri fra bande, oppure il tutto potrebbe essere riconducibile ad esempio a problemi legati con il traffico di sostanze stupefacenti. Non abbiamo ancora fermato nessuno dei responsabili. I ragazzi, che tra l'altro la maggior parte dei quali sono di seconda generazione, quindi sono italiani a tutti gli effetti, ben integrati anche nel tessuto sociale, stanno collaborando con noi per la ricostruzione del fatto. Cristina Carpinelli, GR24, Il Sole 24 Ore. Siamo al calcio, perché questa sera è in campo le italiane per la Champions League. A San Siro l'Inter affronta il Manchester, a Londra la Roma affronta l'Arsenal. E allora andiamo a sentire che cosa succede in casa delle due squadre inglesi. We saw the maturity in the boy, all the players' maturity to handle the occasion. La differenza la farà la maturità dei miei giocatori. È sfrontato come chi la coppa la già in bacheca e saggio come chi a San Siro ha già visto le streghe, Sir Alex Ferguson. Perché è vero che il suo Manchester United arriva a Milano da detentore della Champions e da campione del mondo in carica. Ma Sir Alex rispetta quel Mourinho che tanto l'ha fatto penare quando lo Special One sedeva sulla panchina del Chelsea. E Ferguson poi non dimentica neppure quella serata di 2 anni fa quando sotto l'acquazzone i Red Devils vennero inceneriti a San Siro dal Milan lanciato verso il successo di Atene. E allora, prima di tutto, prudenza e attenzione in difesa, dove mancherà un uomo chiave come Vidic, squalificato. For me the Champions League is a cup competition. Anybody can hope to win a cup. Tutti possono vincere la Champions, predica invece Arsène Wenger, manager dell'Arsenal che ospita la Roma. I Gunners vanno avanti a strappi in campionato e stasera non avranno il lungodegente Fabregas, lo squalificato Adebayor e il brasiliano naturalizzato croato Edoardo, appena rientrato dal pauroso infortunio subito 1 anno fa. Ma i londinesi, quando vogliono, giocano il calcio più bello d'Europa e allora occhio al talento del francese Nasri e dell'olandese Van Persie. Dario Ricci, GR 24, Il Sole 24 Ore. 3 sfide con eliminazione diretta. Stasera Inter Manchester United e Arsenal Roma. Domani Chelsea Juventus. Questa volta nell'ennesima sfida tra Italia e Inghilterra, una delle due uscirà battuta. E come sempre, anche se di calcio pur sempre si parla, la posta in gioco è più alta. Oltre agli archeologici sensi di inferiorità che ci portiamo appresso verso gli antichi maestri del football, ci sono anche le oggettive differenze attuali, che sono tante e ben visibili. Noi armata Brancaleone, con arbitri sempre nei guai, regole alla deriva, bilanci in rosso e un'inclinazione al tutti contro tutti perfettamente in linea all'Italian style. Di là dalla manica anche la crisi ai British. Più umiltà, più trasparenza nei bilanci, più voglia di mettersi in gioco. Avremo anche i Mourinho, i Ranieri, ma diamo un'idea di vecchio, come i nostri stadi, casermoni arrugginiti per ultra rabbiosi. Cappello, che di calcio se ne intende, da tempo ha fatto le valigie. Dario Ceccarelli, GR24, Il Sole 24 Ore. E naturalmente di questa doppia sfida torneremo a parlare alle 14 in A Tempo di Sport con Gigi Garanzini. Tra l'altro, a proposito di Inter e di Juventus, Alessandra, è arrivata appena adesso una notizia. Sì, è stata appena battuta dalle agenzie che l'ex direttore generale della Juventus, Luciano Moggi, è stato rinviato a giudizio a Roma per diffamazione nei confronti dell'Inter. Il processo inizierà il 4 giugno. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. A Roma in corso il vertice italo-francese, Nicolas Sarkozy e Silvio Berlusconi sono ancora a colloquio, dovrebbero firmare un accordo sul nucleare, si prevede la creazione di 4 centrali di terza generazione sul territorio italiano che dovrebbero coprire il 25% del fabbisogno di energia del nostro paese. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha sanzionato per 2.800.000 euro alcune compagnie telefoniche, fra queste Vodafone per oltre 1.500.000 euro e Telecom Italia per 536.000 euro. Le violazioni sono molte, dai limiti messi alla portabilità del numero fino ai servizi con sovrapprezzo non richiesti. Nuovi ribassi per le borse, il netto calo di Wall Street di ieri e il clima di incertezza spingono Milano a perdere lo 0,92% sull'S&P MIB e l'1,20% sul MIT. C'è un legame fra l'Italia e le stragi dei fondamentalisti islamici avvenute a Mumbai in India il 26 novembre. I soldi che sono serviti ad attivare le schede telefoniche dei terroristi sono partiti da Brescia. Sotto accusa un pakistano che ha esibito un documento falso e ora è scomparso. È stata nei fatti una spedizione punitiva. La scorsa notte, durante una festa tra giovani cinesi in un locale a Milano, un gruppo della stessa nazionalità ha fatto irruzione con macete e coltelli. La vittima è una e 5 i feriti. L'udienza preliminare per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco è iniziata stamattina ed è subito stata aggiornata al 7 marzo. L'unico imputato è il fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. In tribunale era presente lo stesso Stasi e la famiglia Poggi. Serata di grandi sfide per l'andata agli ottavi di Champions League di calcio. A San Siro l'Inter ospita i campioni in carica del Manchester United, a Londra la Roma affronta l'Arsenal, completano il programma Lione-Barcellona e Atletico Madrid-Porto, domani Chelsea-Juventus. E allora andiamo alle indagini sugli attentati di Mumbai in India che, come dicevamo prima, portano a Brescia. Sentiamo perché. Sarebbe partito da Brescia l'accredito per attivare le schede telefoniche ai terroristi che il 26 novembre scorso entrarono negli alberghi e nei luoghi turistici di Mumbai provocando l'uccisione di 138 persone. Gli indizi che servono a delineare la rete logistica dell'attentato sono raccolti nel dossier di polizia e intelligence locali che rende pubbliche le comunicazioni di quella notte con i capi che raccomandano ai terroristi di salvare i musulmani e uccidere tutti gli altri. Mittente del pagamento attraverso la Western Union del Madina Trading di Brescia, un pakistano qualificatosi come appoggiava i Iqbal, ma che avrebbe esibito un documento falso, almeno secondo fonti investigative italiane, che da dicembre hanno cominciato a seguire la pista che ha portato a Brescia. Il vero Iqbal, residente in Spagna e che non risulta sia passato per l'Italia, è stato arrestato in Pakistan nell'ambito di un'indagine più ampia. L'impiegato del phone center non si ricorda di quell'uomo. Nel locale, situato in una zona ad alta concentrazione di immigrati, transitano ogni giorno centinaia di volti anonimi, ma annotati su un registro, come richiesto dal regolamento. La comunità pakistana è al setaccio, ma per gli inquirenti è un arduo compito risalire alla vera identità di chi ha effettuato il pagamento in una città dove le rimesse degli immigrati sono valutate in 130 milioni di euro. Per gli inquirenti, chi ha fatto il versamento potrebbe, come spesso accade, essere solo una pedina marginale. Paola Buizza, GR24, Il Sole 24 Ore, Brescia. Brescia, dunque, già protagonista nel passato di inchieste sul terrorismo islamico, su queste novità e sugli strumenti utilizzati dal Pakistano in contatto con i terroristi di Mumbai. Sentiamo il parere di Stefano D'Ambroso, già titolare di indagini sul terrorismo islamico e ora consulente del Ministero della Giustizia. Lo ha raggiunto e intervistato Raffaella Calandra. In attesa di verifiche ulteriori va detto chiaramente che quello di cui stiamo parlando non è una pista investigativa in senso stretto, è uno spunto investigativo che va approfondito dati i clamorosi eventi indiani e che di fatto che cosa ci dicono? Che c'è una comunità a Brescia, già da tempo stanziale su Brescia, vicina alla conflittualità in corso nell'area pakistano-afghana-indiana. Questo non vuol dire però che a Brescia con certezza abbiamo delle cellule vicine al terrorismo islamico di tipo qaedista. Però questa persona ha utilizzato dei documenti falsi per attivare queste schede telefoniche, quindi in qualche modo era consapevole che l'utilizzo che ne sarebbe stato fatto non era proprio lecito. Non sono però così sicuro che si riuscirà a individuare una sua consapevolezza sul fatto che proprio con quei soldi si sarebbe andati a fare quel tipo di attentato che poi è stato un fatto clamoroso di Mumbai. Si parla di nuovo di schede telefoniche, quindi del passaggio di soldi attraverso i money transfer. È stata tempo fa anche annunciata una stretta su queste realtà. Per quanto riguarda il finanziamento al terrorismo, questo è un passaggio essenziale e necessario, quello di monitorare il più possibile proprio tutti quei centri, quegli istituti che consentono questo trasferimento al di fuori delle banche, quindi un mercato parallelo alle banche. La verità è che non è facile. L'utilizzo di un documento falso dimostra quanto sia davvero semplice superare il muro del necessario controllo che pur sarà fatto in prospettiva. Ora andiamo in Pakistan, dove i talebani hanno annunciato un cessate il fuoco nella zona nord-occidentale del paese, ma in cambio hanno voluto che il governo imponesse in quelle zone la Sharia, ossia la legge islamica che prevede per esempio la condanna a morte per adulterio, omosessualità e per chi offende Allah. Ce ne parla Adib Fateh Ali. Mentre la stampa USA rivela indiscrezioni su istruttori dell'esercito USA che addestrerebbero in segreto milizie tribali come sostegno per la lotta ad Al-Qaeda, nel Pakistan i talibani continuano a dare segni di intesa col governo di Islamabad. Dopo il cessate il fuoco unilaterale annunciato ieri dagli studenti coranici nel distretto di Bajur, a nord-ovest del paese, oggi è stata la volta del consiglio del Shura della tumultuosa valle di Swat ad annunciare una tregua illimitata. Come contropartita della fine della lotta armata, al posto delle norme ordinarie dello Stato, è stata introdotta nelle zone pacificate l'applicazione diretta della legge islamica Sharia. Non è chiaro però se questo compromesso sia una fonte d'allarme per l'amministrazione USA oppure il frutto di una nuova strategia che alterna tregue e alleanze con i forti gruppi locali per colpire il nemico Al-Qaeda, come venne sperimentato con successo in Iraq. Adif Fateh Ali, GR24, Il Sole 24 Ore. Veniamo alle questioni politiche italiane, ad iniziare dal PD e a quelle, le divisioni interne del PD riguardo al testamento biologico. Oggi c'è stato un incontro fra il neo segretario Dario Franceschini e i capigruppo e i vice capigruppo di Camera e Senato. E allora Franceschini ha detto che la posizione del Partito Democratico sul testamento biologico è la stessa e gli emendamenti sul tema dell'idratazione e dell'alimentazione presentati da Francesco Rutelli e dai Teodem, per quanto riguarda legittimità politica, non rappresentano, a quanto si apprende, la mediazione del partito. Tutto questo mentre il PD si dibatte anche in altri problemi, problemi di radicamento sul territorio innanzitutto. Intere aree del paese non hanno visto ancora un tesseramento compiuto, ha detto sabato scorso il presidente dei senatori del PD Anna Finocchiaro a chi chiedeva congresso e primarie subito. Valentina Furlanetto ne ha parlato con il responsabile proprio del tesseramento del partito, Daniele Marantelli. Siamo a febbraio e quindi il tesseramento è pensato per essere completato nel corso dell'anno, quindi fine 2009, salvo essere anticipato nel momento in cui farà il congresso. Abbiamo già raggiunto alcune centinaia di migliaia di iscritti, ritengo ragionevole prevedere che prima del congresso gli iscritti del Partito Democratico saranno simili o superiori a quelli dei grandi partiti socialdemocratici europei. Ho letto una sua intervista nella quale diceva più che di nomi nuovi si ha bisogno di idee nuove. Credo che l'identità e la stessa funzione nazionale del Partito Democratico, più che dal dibattito interno, dai suoi congressi, saranno marcati dalla capacità che il PD avrà di attraversare questa crisi con idee, proposte, soluzioni, a condizione appunto che si abbiano idee fresche e nuove. E quanto succede nel Partito Democratico influenza anche la vicenda Rai? Il terremoto in Casa Democratica allungherà i tempi per le nomine di Viale Mazzini. Il Partito Democratico ha chiesto e ottenuto dal governo più tempo per consentire al neo segretario Franceschini di trovare un nome che metta tutti d'accordo. Vanno deserte dunque le due assemblee dei soci Rai convocate per ieri e oggi e che avrebbero dovuto indicare il nome del nuovo presidente e ratificare le nomine dei membri del CDA decise dalla commissione di vigilanza mercoledì scorso. Le diplomazie di entrambi gli schieramenti sono comunque al lavoro per trovare il nuovo presidente. Indiscrezioni degli ultimi giorni indicano come possibile la riconferma di Claudio Petruccioli, mentre sembra sfumare per il veto di Berlusconi l'ipotesi di Sergio Mattarella, ex ministro della difesa. Sembra tramontare poi anche l'ipotesi cara a Veltroni di Pietro Calabrese, ex direttore di Panorama, mentre spuntano fuori i nomi dell'ex direttore generale Pierluigi Celli, di Aria Dalemiana, di Paolo Ruffini, direttore di Rai 3, e di Fabiano Fabiani, già membro del CDA. Al posto poi di Claudio Capponna, la carica di direttore generale, in pole position Mauro Masi, segretario generale di Palazzo Chigi. Paola Cavalli, R24, Il Sole 24 Ore, Roma. Una notizia arrivata in mattinata che riguarda un problema che non è ancora risolto, ossia il blackout del servizio di posta elettronica Gmail in tutto il mondo, ossia il servizio di posta elettronica del motore di ricerca Google. Google fa sapere, siamo a conoscenza del problema che si è presentato intorno all'1:30 ora americana, stiamo lavorando intensamente per risolvere il problema e vi faremo sapere appena avremo novità. E naturalmente ve lo faremo sapere anche, anche noi. Ora parliamo di cinema, il film trionfatore agli Oscar The Millionaire è costato molto poco. Il regista Danny Boyle l'ha infatti girato in India. È il segno di un mondo sempre più globalizzato, ma le produzioni in trasferta sono spesso conseguenze della crisi. È stato l'Oscar della globalizzazione. 10 nomination, 8 statuette, The Slumdog Millionaire è costato solo 15 milioni di dollari. Costi bassissimi, altissima qualità, perché è stato girato a Bollywood, dove le maestranze sanno fare cinema e lo fanno a basso costo. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire! In questo caso la trasferta era giustificata dalla sceneggiatura, ma spesso i set si spostano alla ricerca di paesi meno costosi, al di là di quello che richiederebbe la storia. Pura delocalizzazione, insomma. Tra i primi luoghi sospesi nell'immaterialità del cinema, Tabernas, nella provincia andalusa di Almeria. Lì c'era la mini Hollywood di Sergio Leone e dei tanti spaghetti western. Dopotutto, deserto era deserto, come Cinecittà era nella stessa Roma dei Peplum. Ma ora Spagna e Italia sono paesi molto cari, ultimamente anche per Hollywood. E allora anche gli italiani ora viaggiano, si va in Nord Africa come tornatore che ha ricreato la Sicilia in Tunisia. O nei paesi dell'est, come hanno fatto ultimamente Renzo Martinelli o Roberto Faenza. Costi contenuti e maestranze meno rigide sugli orari, confessano. C'è chi va più lontano, addirittura in Nuova Zelanda, dove sono state girate le Cronache di Narnia, ma ci ha fatto un salto anche il nostro Fausto Brizzi, per Ex. Ma c'è una nuova frontiera da scoprire, si chiama Nollywood, ed è quella dell'industria nigeriana. Di cinema ne fa tanto, anche se giovane e non ancora molto esperto, ma c'è da giurarci, si approderà anche lì. Marta Cagnola, GR24, Il Sole 24 Ore. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. A Roma è in corso il vertice italo-francese in attesa della conferenza stampa di Nicolas Sarkozy e Silvio Berlusconi, che in questo momento sono a colloquio. Dovrebbero firmare un accordo sul nucleare. Si prevede la creazione di 4 centrali di terza generazione sul territorio italiano, che dovrebbero coprire il 25% del fabbisogno di energia del nostro paese. Nuovi ribassi per le borse. Il netto calo di Wall Street di ieri e il clima di incertezza spingono Milano a perdere oltre l'1%, a pesare soprattutto auto e assicurativi. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha sanzionato per 2.800.000 euro alcune compagnie telefoniche. Tra queste Vodafone per oltre 1.500.000 e Telecom Italia per oltre 500.000 euro. Le violazioni sono molte, dai limiti messi alla portabilità del numero fino ai servizi con sovrapprezzo non richiesti. C'è un legame fra l'Italia e le stragi dei fondamentalisti islamici avvenuti a Mumbai in India il 26 novembre. I soldi che sono serviti ad attivare le schede telefoniche dei terroristi sono partiti da Brescia. Sotto accusa un pakistano che ha esibito un documento falso e ora è scomparso. Aggressione a colpi di macete durante una festa di giovani cinesi, un morto e 5 feriti. A Milano la ricostruzione del colonnello dei carabinieri Lorenzo Falferi. C'era una festa in corso questa notte in questa discoteca, che era stata per l'occasione affittata a un gruppo di ragazzi di origine cinese. La festa si stava svolgendo regolarmente, a un certo punto improvvisamente un gruppo di persone, sembra oltre una decina, si è introdotta, ha fatto irruzione all'interno della discoteca con coltelli e macete, tipo macete. Hanno colpito diversi frequentatori. L'udienza preliminare per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, è iniziata stamattina ed è stata subito aggiornata al 7 marzo. L'unico imputato è il fidanzato di Chiara, Alberto Stasi. Stasera sfide per l'andata degli ottavi di Champions League di calcio. A Londra la Roma affronta l'Arsenal, a San Siro l'Inter ospite e campione in carica del Manchester United. Domani Chelsea-Juventus. Dicevamo del problema a chi ha un sistema di posta elettronica Gmail, quello insomma del motore di ricerca Google, e ci sono delle novità a riguardo, Simone? Sì, perché pare che non sia completamente bloccato, ma sia bloccato solamente per chi tenta di accedere da un browser internet, ossia da internet, mentre invece chi tenta di accedere da un client di posta, ossia un programma di posta elettronica come Outlook per esempio per i sistemi Microsoft o Mail per i sistemi Apple, invece riesce ad entrare, insomma che ce l'ha già configurato sul suo programma di posta elettronica. Adesso andiamo a parlare dei prezzi degli alimentari e soprattutto di quanto sta tenendo il settore alimentare durante questa crisi. Pare che riesca appunto a tenere meglio di altri settori, questo è quanto emerge dal bilancio del 2008 fatto oggi da Federalimentare. Ce ne parla in diretta da Roma Paola Nania. Sì, buongiorno. In effetti l'alimentare riesce a tenere rispetto al resto dell'industria italiana, lo dimostrano i dati presentati oggi sulla produzione 2008. Per l'alimentare il calo c'è, ma è in minimo, meno 1,5% contro il meno 4,3% del resto dell'industria. La situazione dovrebbe però peggiorare lievemente nel 2009 con un calo della produzione, stiamo parlando sempre di alimentare, del 2-3%, dovuto principalmente all'indebolimento dell'export. Per quanto riguarda il mercato interno c'è una progressiva erosione, tiene invece la grande distribuzione, i discount, gli hard discount, quindi tutti i prodotti low cost. Per quanto riguarda i prezzi scendono, i prezzi molto più lentamente nell'andamento dell'inflazione. A questo proposito abbiamo sentito il presidente di Alimentari Gian Domenico Auricchio, sentiamo. Sì, è vero, probabilmente c'è stata un'attenzione speculativa dovuta sicuramente ai trader internazionali di cui le nostre imprese sono state per lo più vittime o comunque hanno pagato il prezzo e che inevitabilmente non potevano non ribaltare sui listini, anche se questo posso assicurarlo, l'hanno fatto solo in parte in un determinati momenti e stanno rapidamente riducendo. Tornando brevemente all'export, è andato benissimo nel 2008, più 10%, ma è previsto un indebolimento nel 2009 soprattutto per le difficoltà in Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie Paola Nania. Parliamo adesso dei rinnovi contrattuali che, secondo il segretario generale della CGIL Guglielmo Epifani, saranno una giungla, e questo per la responsabilità del governo del ministro Sacconi, che hanno voluto procedere alla riforma del sistema contrattuale. Questo l'attacco piuttosto duro di Epifani Fani in occasione di un'audizione in commissione alla Camera su questo tema, nella quale ha proposto, laddove il contratto in vigore lo preveda, di rinnovare i bienni che restano alla scadenza, prima di procedere con la nuova contrattazione che prevede un rinnovo triennale, appunto con le nuove regole. Sentiamo Epifani al microfono del nostro Andrea Viali. Noi abbiamo pattuito dei quadrienni, poi ci sarebbe il biennio. Logica vorrebbe che si facesse il biennio. Non si è discusso di nessun raccordo tra prima e dopo. Però se tu fai una pattuizione quadriennale, logica vuole che la porti a compimento e poi partire col nuovo modello, insomma, direi. Però. Quindi lei teme un po' di disordine in questo periodo di transizione? Beh, ma mica solo una transizione. Diciamo grande disordine sotto il cielo delle relazioni contrattuali. Giulia Crivelli, buongiorno. Buongiorno. Oggi parliamo di un italiano che è andato a fare uno shopping molto particolare in Francia. Sì, Women's Wear Daily, che è il quotidiano della moda americano, anticipa una notizia che poi probabilmente a cui verrà dato spazio anche nei prossimi giorni, perché c'è poi oggi un incontro ufficiale qui a Milano. Il Matteo Marzotto, insieme all'amministratore delegato di Marni, che è Castiglioni, ha comprato questo marchio francese che si chiama Vionnet, un marchio storico francese fondato prima della Seconda Guerra Mondiale a Parigi e che da qualche anno era un po' dormiente. Matteo Marzotto ha fatto shopping in Francia e ora vuole rilanciarlo. Secondo Women's Wear Daily dovrebbe arrivare nel giro di 2 anni a un fatturato di una quindicina di milioni di euro. Giulia, veniamo a una questione che sta animando le prime pagine dei quotidiani spagnoli, ossia la vicenda del ministro dimissionario. Che cosa è successo e che cosa scrivono i quotidiani spagnoli? La Spagna è, a differenza forse dell'Italia, come in molti altri paesi, se ci sono delle polemiche forti o dei dubbi sull'integrità di un ministro, in questo caso, ma in generale di un protagonista della scena politica, scattano le dimissioni. In questo caso a dare le dimissioni è stato il ministro della giustizia del governo Zapatero, che si chiama Francisco Camaño, è il nuovo, mentre il dimissionario è Mariano Fernández Bermejo. Ha dato le dimissioni per una serie di motivi, ma soprattutto la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato queste sue battute di caccia con quel giudice Garzón, che conosciamo bene anche in Italia, che sta conducendo un'inchiesta su alcuni membri del Partito Popolare, che è naturalmente il partito dell'opposizione. Quindi è sembrato quantomeno inopportuno che il ministro della giustizia avesse rapporti così stretti con un giudice che appunto conduce un'inchiesta di questo genere. Il dubbio sull'integrità del ministro è bastato, perché non ci sono prove di malversazioni, per portare appunto a queste dimissioni. Esatto. Giulia, passiamo invece al Financial Times. E qui invece andiamo in un'altra parte del mondo, a Abu Dhabi. Un po' tutti i giornali se ne occupano, anche il Sole 24 Ore oggi. Per Financial Times è una notizia da prima pagina, perché Abu Dhabi e Dubai, che sono i due più importanti dei 7 Emirati Arabi Uniti, si sono aiutati a vicenda. In questo caso Abu Dhabi, che è ricchissimo di petrolio, ha aiutato Dubai, che invece è ricco di sviluppo immobiliare, poverissimo di petrolio, si era un po' troppo indebitato. Abu Dhabi è corso al salvataggio con un'operazione da 20 miliardi di dollari, scrive Financial Times, così almeno Dubai non sarà la nuova Islanda, cioè rischiava in effetti la bancarotta per le speculazioni immobiliari di cui abbiamo tanto sentito parlare. Grazie anche per oggi, Giulia, buona giornata. Adesso parliamo di un libro di un autore che tu hai incontrato, Alessandra. Sì, si tratta di Flavio Soriga, che è diventato noto al grande pubblico con Sardinia Blues, ora in libreria con L'amore a Londra e in altri luoghi, sempre pubblicato da Bompiani. Si tratta di una raccolta di racconti dove tornano temi a lui cari, la voglia di fuga e il rapporto di amore e odio con la propria terra, nel caso di Soriga, la Sardegna. Allora sentiamo che cosa ci ha raccontato Soriga. Sono anche di molti scrittori, forse di tutti. Penso per esempio a Philip Roth, che è un autore che mi piace molto e che non è sardo, però alla fine si può dire che ha raccontato il suo bisogno di scappare prima possibile da Newark, da questo sobborgo di New York, e questo bisogno continuo però di fare i conti con quello che era stato lì, il luogo in cui noi siamo diventati grandi, in cui abbiamo conosciuto i nostri genitori, abbiamo litigato furiosamente con loro, abbiamo deciso che la vita sarebbe andata in un modo o in un altro. Alla fine, dovunque sei, poi torni lì con la mente, con i ricordi, con le sofferenze. Uno dei racconti più appassionanti di questa raccolta è proprio il primo, Aprile, che racconta di un ragazzo che va via dalla sua terra, da una piccola isola. Un'isola che potrebbe essere un isolotto vicino alla Sardegna, ma potrebbe essere un isolotto in qualsiasi parte del mondo. In che modo questo ragazzo vive questo conflitto di legame con la sua famiglia, con la sua terra e con la voglia invece di fuggire? Il mondo è molto grande. E io ho proprio una voglia fisica di vedere tutto quello che posso finché dura la vita. Questo non vuol dire che non abbia anche voglia sempre di tornare poi a passare l'estate a Sarchittu. Però ho bisogno di sapere cosa pensano i ragazzi di Dublino e come sono le notti di Praga. E questo mi interessava molto raccontare fino adesso. Può darsi che d'ora in poi racconti tutt'altro, ma fino adesso ho quest'idea di un luogo che ti sta stretto e hai bisogno di vederne di più ampi. E poi scopri che alla fine la vita è uguale dappertutto, o gli amori, gli odi sono uguali dappertutto. Gli amori soprattutto. GR Extra Large, queste le principali notizie della giornata. A Roma in corso il vertice italo-francese. Nicola Sarkozy e Silvio Berlusconi sono a colloquio per firmare un accordo sul nucleare. Si prevede la creazione di 4 centrali di terza generazione sul territorio italiano. Nel 2008 gli episodi di violenza sessuale denunciati in Italia sono diminuiti dell'8,4%, e quanto fa sapere oggi il Ministero dell'Interno, oltre il 60% degli stupratori è italiano. Nuovi ribassi per le borse, in netto calo di Wall Street di ieri. Il clima di incertezza spingono Milano a perdere oltre l'1%, a pesare soprattutto auto e assicurativi. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha sanzionato per 2.800.000 euro alcune compagnie telefoniche, che fra queste Vodafone e Telecom Italia. Le violazioni sono molte, dai limiti messi alla portabilità del numero fino ai servizi con sovrapprezzo non richiesti. C'è un legame tra l'Italia e le stragi dei fondamentalisti islamici avvenute a Mumbai in India il 26 novembre, quando morirono 138 persone, fra cui 26 turisti. I soldi che sono serviti ad attivare le schede telefoniche dei terroristi sono partiti da Brescia. Sotto accusa un pakistano che ha esibito un documento falso e ora è scomparso. Aggressione a colpi di macete durante una festa di giovani cinesi la scorsa notte. Un morto e 5 feriti a Milano. Serata di grandi sfide per l'andata degli ottavi di Champions League di calcio. A San Siro l'Inter ospita i campioni in carica del Manchester United. A Londra la Roma affronta l'Arsenal. Con una piccola folla di cronisti e cittadini davanti all'ingresso del tribunale di Vigevano è iniziata questa mattina l'udienza preliminare per l'omicidio di Chiara Poggi, la ragazza uccisa a Garlasco il 13 agosto del 2007. Si dovrà in sostanza decidere se rinviare a giudizio l'unico imputato, Alberto Stasi. Lara Vecchio, allora cos'è successo? Buongiorno Alessandra, è successo che, come era stato ampiamente previsto, alla vigilia l'udienza preliminare a carico di Stasi per l'omicidio di Chiara è durata circa un'ora e mezza, poi è stata aggiornata dopo aver preso in esame le eccezioni delle parti, una decina, quelle sollevate dalla difesa, relative soprattutto al computer di Alberto, intorno al quale ruota tra l'altro uno degli alibi. Ricorderete, lui disse di aver lavorato alla tesi di laurea la mattina del delitto. Nelle ultime ore i legali di Stasi avevano tra l'altro depositato una memoria difensiva proprio per contestare le fonti di prova della PM Rosa Muscio, e la data fissata dal GUP Vitelli è quella del prossimo 7 marzo, giorno in cui tra l'altro verrà affrontato anche il secondo procedimento parallelo a carico di Stasi, che è quello che lo vede accusato di detenzione di materiale pedopornografico. Solo in quell'occasione, quindi, con ogni probabilità sapremo se verrà rinviato a giudizio. Intanto i genitori di Chiara hanno chiesto di costituirsi parte civile. Come dicevate, sì, scusami Alessandra? No, Lara, non abbiamo fatto nessuna domanda, comunque può bastare così. Grazie per la tua corrispondenza. Adesso restiamo sulla cronaca mentre vediamo scorrere dalle televisioni le immagini di Silvio Berlusconi e Nicolas Sarkozy che firmano l'accordo, presumibilmente la firma dell'accordo sul nucleare. Restiamo sulla cronaca e andiamo a parlare di una truffa all'Unione Europea che è stata scoperta in Calabria. Nell'inchiesta della Procura della Repubblica di Cosenza per la truffa da 75 milioni di euro all'Unione Europea sono indagati anche alcuni consulenti del Ministero dello Sviluppo Economico. Tre dei consulenti sono infatti tra le 10 persone nei confronti delle quali è stato applicato l'obbligo di dimora. I consulenti coinvolti nell'inchiesta hanno seguito i collaudi per verificare la regolarità delle iniziative imprenditoriali per le quali sono stati concessi i finanziamenti comunitari in base alla legge 488, iniziative che secondo i magistrati, malgrado risultassero irregolari sotto l'aspetto dei requisiti, hanno ottenuto ugualmente i finanziamenti, determinando così la truffa ai danni dell'Unione Europea e dello Stato. Le persone indagate nell'inchiesta sono complessivamente 52 e tra loro anche alcuni funzionari di banche, mentre un ordine di arresto è stato emesso nei confronti di un notissimo commercialista di Cosenza. Filippo Veltri, GR24, Sole 24 Ore, Cosenza. In attesa della conferenza stampa di Silvio Berlusconi e del presidente francese Sarkozy, vi raccontiamo una storia che arriva da Genova, una caccia al cinghiale nelle vie collinari della città. Squadre di cacciatori coordinate dalla provincia e scortate dalla polizia. Safari all'alba, il parco del Peralto che troneggia su Genova come una savana. Non ci sono bestie feroci da cacciare, ma bensì cinghiali che da mesi scendono tra le case dei quartieri collinari alla ricerca di cibo, assediando strade e portoni. Gli ungulati rappresentano un nuovo pericolo per le città e non solo a Genova, tanto che della faccenda si è pure occupato il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Dalle 6 di stamane, per più di 4 ore, squadre di cacciatori hanno cinto d'assedio il parco sparando centinaia di colpi. Il piano di selezione dei cinghiali è già programmato settimane fa, era stato rimandato perché la notizia era stata captata dagli animalisti pronti a boicottare l'operazione. Stamane, prima dell'alba, in gran segreto è scattata la caccia che prevedeva l'abbattimento di una quarantina di capi. Qualche contestatore ha provato ad occupare le sterpaglie del Peralto, ma dopo i primi spari ha battuto in ritirata. L'intera zona è stata presidiata da robusti contingenti di polizia e carabinieri. Numerose le telefonate al 113 da parte di abitanti della zona allarmati dall'eco dei colpi di fucile. Cessato il fuoco, ora è pronta una raffica di polemiche. Andrea Ferro, GR24. Sole 24 Ore, Genova. E che sono il centro di questo nostro incontro bilaterale, ma per cominciare dall'inizio do... E questa è l'attesa conferenza stampa di Silvio Berlusconi e Nicolas Sarkozy dopo il vertice bilaterale di Roma. Sentiamone un brano. François Fillon, a tutti i suoi ministri, i loro ministri che hanno voluto essere qui insieme a noi e ai nostri ministri in questo vertice, che è il primo vertice del mio governo con l'amico governo francese, e c'è stato anche tra l'altro una prima riunione del Consiglio di Sicurezza e di Difesa. I nostri ministri si sono incontrati e hanno fatto il punto su una relazione che è sempre stata molto cordiale tra di loro. E in tutti i settori abbiamo visto che ci sono tante cose in più che si potrebbero fare, vista la vicinanza dei nostri due paesi, le nostre comuni radici culturali, la nostra amicizia. E io devo dire che ho colto da ciò che ci siamo venuti dicendo direttamente io e il presidente Sarkozy proprio questa sua intenzione di aumentare le attività comuni e le cose che noi possiamo fare insieme tra i due paesi e soprattutto la nostra presenza in Europa. Ed è proprio su questo che noi ci siamo intrattenuti lungamente, ci siamo visti condividendo le stesse posizioni nell'incontro di Berlino di domenica scorsa. Lavoreremo insieme ai nostri uomini per presentarci con una identica posizione al Consiglio informale dei capi di Stato e di Governo europei a Bruxelles domenica prossima, preparatorio del G20. Abbiamo una visione comune su tanti problemi, una visione comune su come devono essere cambiate le regole in generale e su come deve essere cambiata anche la Unione Europea e il suo modo di funzionare. Quindi credo che potremo fare un ottimo lavoro con dei buoni risultati. Permettetevi però, visto che questa è la prima occasione pubblica che mi si presenta, di rivolgere al presidente Sarkozy un complimento veramente sentito sulla gestione che lui ha saputo dare al Consiglio europeo nei sei mesi di presidenza francese. E questo che state sentendo è Silvio Berlusconi, conferenza stampa al termine del vertice italo-francese, quindi con il presidente francese Sarkozy in corso a Villa Madama a Roma. Vi ricordiamo tra l'altro che è stato siglato l'accordo di cooperazione italo-francese sul fronte del nucleare, che prevede la creazione di 4 centrali nucleari su territorio italiano. E naturalmente torneremo a darvi conto di tutto questo e risentiremo le voci della conferenza stampa nelle prossime edizioni del giornale radio. La prossima è alle 15. È tutto per questa edizione del GR Extra Large, condotta e curata da Simone Spezia e da Alessandra Tedesco, coordinata da Daniele Biacchessi e con in regia Fabio Cantadori. La linea adesso va a tempo di sport con il GR Extra Large. Ci risentiamo domani alle 13. GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Gianfranco Fabi.